La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in diretta alle 16.30, primi 42 secondi in questo lunedì 12 dicembre. Oscar Giannino di Sud di Milano vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast qui alla versione di Oscar. Vi ricorda il numero di telefono per intervenire, 800 24 00 24. Vi dico subito di che cosa trattiamo oggi. Nel frattempo due brevi flash sulla crisi di governo. È attesa la lista da parte del presidente incaricato Gentiloni, la lista dei ministri, poco dopo le 17.30, quindi appena una mezz'oretta dopo che sarà finita questa trasmissione apprenderemo gli eventuali modifiche in concreto rispetto al governo uscente guidato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Nel frattempo, secondo flash, tra le 12 e qualche minuto e le 13.30 praticamente si è tenuta la direzione del PD, una relazione sullo stato della crisi da parte del vice segretario Guerini, la richiesta entro le 14 di una delibera perché si trattava di dare il via definitivo al governo guidato da Gentiloni. Il dibattito è stato animato poi dopo la relazione di Guerini da un intervento a nome della minoranza di Speranza, che è stato molto duro con la segreteria uscente, dicendo bisogna fare, in sintesi estrema, lo riferisco, un confronto serio sulle ragioni della prevalenza del no. E su questo c'è stato anche un intervento di Cuperlo, che è stato, per così dire, coi toni più concilianti, dicendo dobbiamo prendere questo stimolo per un congresso vero, e la stessa conclusione poi di Matteo Renzi in pochi minuti ha abbracciato questa conclusione, quindi un congresso vero del PD in tempi ragionevolmente brevi. Sapete che per statuto il congresso dovrebbe essere tarda primavera del 2017, ma si può procedere a un congresso anticipato in caso di dimissioni del segretario. Vediamo di che cosa si tratterà. Nel frattempo oggi l'attenzione sarà sulla composizione del governo. La puntata è dedicata però a un'altra cosa e si rivolge in particolare ai commercialisti che ci ascoltano, ai piccoli imprenditori. Perché? Perché è una puntata che nasce con esigenza di servizio per rendervi consapevoli del fatto che l'approvazione in fretta e furia, in tempi rapidissimi, della legge di bilancio, proprio per l'esigenza di liberare il calendario parlamentare e consentire quindi al capo dello Stato di espletare tutte le procedure per la nomina del nuovo governo e per la sua entrata in carica, che potrebbe essere il giuramento stasera stessa, a dire la verità, tutto questo ha portato a un'approvazione sul tamburo, per così dire, della legge di bilancio per il 2017, e ciò comporta degli inevitabili interrogativi, dei problemi aperti molto seri che toccano milioni di italiani. Perché? Perché l'approvazione della legge di bilancio, ricordiamolo, ha avuto un iter per cui già alla Camera il dibattito, il confronto nelle commissioni, prima che nell'Aula, è stato strangolato dal precipitarsi degli eventi dopo l'esito del referendum. Il Senato a quel punto non ha avuto alcuna possibilità in realtà di esaminare alcuna modifica rispetto ai tanti emendamenti che erano stati messi da parte alla Camera e che tantomeno sono stati a quel punto esaminati al Senato, che è andato direttamente all'approvazione del testo conforme Camera senza passare praticamente neanche per le commissioni. Alcuni punti delicati, ripeto, restano a questo punto introdotti nella nostra legislazione con questa procedura molto d'urgenza, mentre sembrava di aver capito che vi fosse ampia disponibilità per correggere alcuni di questi punti, no? Per esempio, al Senato erano state girate le disposizioni sulle slot machine, e naturalmente non fanno parte del testo. Si parlava di un anticipo dell'entrata in vigore del 30% delle slot machine, quelle che riguardano tabaccherie e piccoli esercenti commerciali, non le grandi sale dei grandi esercenti. Ma soprattutto ci sono alcune questioni che riguardano il regime fiscale delle partite IVA e delle piccole imprese, sulle quali alla Camera si era capito che c'era disponibilità a una verifica, a una correzione, a una modifica. Per esempio il regime trimestrale delle comunicazioni ex clienti e fornitori, il cosiddetto spesometro per l'IVA, che era già previsto nel decreto fiscale e che alla Camera diverse parti politiche, anche nella maggioranza, c'era una disponibilità a rifletterci sopra. E in aggiunta anche il regime di cassa per le imprese minori, e qui voi potreste giustamente, legittimamente dire: ma come, il regime di cassa per la tassazione del reddito è una richiesta voluta dai piccoli per anni, e quindi il pagamento delle imposte solo una volta che si è ottenuto il saldo delle fatture, piuttosto che invece pagare le imposte per competenza una volta registrate le fatture, perché adesso lamentarsi? Perché naturalmente, rimanendo introdotta la norma così com'era nel testo originale, quello che prevale è un regime obbligatorio che obbligherà in realtà una doppia contabilità, quindi anche in questo caso ci sono tutti gli estremi per un appesantimento degli obblighi per attuazione di questo regime, se resta come è nel testo approvato obbligatorio, cioè non è una facoltà ma diventa un obbligo, e però diventa una doppia tenuta di scritture contabili. Allora, per capire meglio tutto questo, ci siamo detti approfondiamoli con un tecnico della materia. E naturalmente la mia domanda a eventuali commercialisti che avessero voglia di darci la loro opinione tecnica è di telefonarci per dire che cosa direte ai clienti, perché le possibilità sono due: o sperare, ma attualmente è una speranza non fondata su alcun impegno da parte del Presidente del Consiglio entrante, e cioè che alcune di queste materie vadano o verranno in qualche misura corrette attraverso il decreto mille proroghe, che come sapete ci aspetta entro la fine dell'anno, con la regolazione di un mucchio di partite che non hanno trovato soluzione nella legislazione ordinaria e in quella pertinente alla legge di bilancio. Altro conto è se il governo ci dica: intanto per il momento ho altre priorità. Sapete che una delle prime priorità sarà quello di verificare come va la parte che sta partendo in Monte dei Paschi di Siena, per verificare un'ultima istanza di partecipazione degli obbligazionisti subordinati alla trasformazione in equity, cioè in capitale. Se non dovesse riuscire anche questo, bisognerà procedere d'urgenza nei prossimi giorni comunque con un intervento pubblico per decreto. Vedremo. Noi non sappiamo allo stato attuale che cosa avverrà di alcuni di questi esempi che vi ho fatto prima, e la domanda diventa: cari professionisti tributari, che cosa dite ai clienti, visto che ci sono pochi giorni per la messa in regola? Ecco, è un po' un esempio di cosa capita, l'ennesimo esempio in un paese di incerta normazione sugli obblighi tributari, che sono ovviamente una materia molto delicata per tutti noi. In questo caso bisogna essere sinceri, l'effetto è dovuto a procedure d'urgenza dovute agli sviluppi politico-istituzionali, ma resta il fatto che per la vita di milioni di cittadini e contribuenti la domanda diventa: come mi comporto? E il professionista che cosa dice ai suoi clienti? Ecco, questa è la fine della mia introduzione, perché più che porre domande non posso. Per cercare di spiegare meglio ai non addetti ai lavori, abbiamo chiamato il direttore di Fiscal Focus, Antonio Gigliotti. Buon pomeriggio. Direttore, buon pomeriggio anche lei. Allora, lei che cosa dice? Io ho fatto solo degli esempi, ma partiamo dalla cosa concreta. Lei ai suoi clienti, a chi segue il suo blog e così via, come dirà di comportarsi sulle comunicazioni obbligatorie IVA trimestrali e con l'imputazione per cassa, il regime per cassa per le imprese minori? E poi, ha ragione o ha torto chi dice, secondo lei, che trasformando quest'ultimo regime non in una facoltà ma in una cosa che sembra obbligatoria dal testo, più che un alleggerimento richiesto da anni, diventa un appesantimento degli obblighi? Beh, guardi, intanto le dico che io mi trovo a Reggio Calabria in un convegno di commercialisti presso l'Ordine e si sta discutendo proprio di questi temi, no? E la base, che sono i commercialisti, sono fortemente arrabbiati, perché in realtà è l'ennesima presa in giro verso i contribuenti e verso i professionisti che le assistono. Ma andiamo per gradi. Sì. Loro sono convinti che moltiplicando gli adempimenti si possa ridurre l'evasione fiscale. Questo è un po' un principio che regna da diversi anni e che anche in questa manovra è stato inserito ed è stato un po' fortemente contestato e ci verrà anche in piazza il 14 di dicembre a Roma proprio per dire basta. Mi spiego. Se loro mi introducono il cosiddetto spesometro, noi avevamo un adempimento annuale, adesso sono diventati 4 perché sono ogni 3 mesi, no? E mi dicono che è stato introdotto per combattere l'evasione. Ma io mi chiedo, nello spesometro io non faccio altro che inviare le fatture, giusto? Sì. Ma se io mi metto d'accordo con la controparte, devo fatturare 5.000, invece di 5.000 fatturo 2.005, io nello spesometro andrò ad inserire i dati di quella fattura. Cioè qui i restanti 2.500 che non ho fatturato non mi vanno nello spesometro. Allora io voglio capire come la si combatte questa evasione, ma si è veramente convinti che moltiplicando il numero degli adempimenti quindi si combatte l'evasione? Noi siamo convinti che non è così e cominceremo a dirglielo in piazza, perché evidentemente finora l'abbiamo detto solo tra di noi sottovoce e non l'hanno capito, ma d'ora in avanti lo capiranno bene tutti. Altra cosa importante. Aspetti, che siano convinti comunque di ottenere gli effetti che lei dice, si deriva anche dal fatto che appostano 2 miliardi di maggiore entrate da questa misura. Assolutamente, quindi... sì, ma poi voglio vedere come li incassano questi soldi, anche perché guardi, quindi visto che lei mi fa questa ulteriore domanda, si pone un altro problema, ma si è veramente convinti che aumentando il numero degli adempimenti, il problema è che poi si dovrebbe, quindi questi adempimenti dovrebbero poi ribaltarsi nei confronti del contribuente, perché se io come professionista faccio degli adempimenti, poi ne devo fare molti di più per il contribuente. Vabbè, chiaro che costa, qualcuno paga. Mi deve pagare, bravo. Allora io era previsto uno sgravio. Ecco, bravo. Me l'hanno inserito in un provvedimento di semplificazione fiscale. Siamo assolutamente nella direzione opposta. E non è mica finita qua. Perché se loro mi dicono e mi continuano a dire nei vari talk show, trasmissione, eccetera, eccetera, eccetera, che ormai siamo stanchi di sta roba qua, mi continuano a dire che le tasse non sono aumentate, allora io chiedo, l'imprenditore, se tu gli dici che pagava prima 100 di imposte e non paga più 100, ma tu gli introduci un onere che teoricamente, perché poi è teorica ancora la cosa, il professionista deve aumentare la parcella, al contribuente o che si chiama IRPEF o che si chiamano quindi adempimenti che deve pagare al professionista, ha comunque un appesantimento del conto economico e quindi in realtà viene comunque inciso il contribuente con degli effetti che io ho dei dubbi che possono incidere sulla lotta all'evasione, perché guarda, parliamoci chiaramente, io vado a registrare il documento e se il documento invece di 1.000 il documento che registra è di 500, loro avranno questo documento trasmesso. Io voglio capire come fanno a capire che gli altri 500 non sono stati fatturati. Cioè la politica, noi siamo tutti d'accordo che va fatta la lotta all'evasione, ma deve essere lotta all'evasione vera, non sulla moltiplicazione degli adempimenti che non fanno altro che aumentare gli adempimenti, la burocrazia, gli oneri in capo al contribuente, perché poi ne sopporta l'onere, perché il professionista li fa, ma poi in un certo qual modo deve rifarsi nei confronti del contribuente, perché non è un qualcosa che spetta al professionista. Primo. Poi lei ha citato un altro aspetto sui semplificati, sì, sui piccoli contribuenti. Sì. Vede, anche là è una cosa assurda, perché loro mi dicono che il messaggio che loro hanno dato, sa qual è? Dice, guarda, io con questo nuovo regime ti faccio pagare le tasse unicamente quanti incassi. Sì. Bellissima sta roba. Ottimo, no? Quindi uno dice, è come dire, non paghi più tasse, siamo tutti contenti. Ma il problema in realtà non è così, perché poi tu devi spiegargli, ed è quello che io stavo spiegando ai colleghi in questo convegno e ho interrotto adesso, è quello che dovremmo dire ai nostri clienti. È vero, ma attenzione, che mentre tu prima portavi al professionista unicamente le fatture e ti limitavi a raccogliere le fatture e ve li portavi in studio, adesso non va mica più bene sta roba qua. Tu ti devi mettere, caro mio cliente, pasticcere, perché non stiamo parlando delle SPA, delle SRL, stiamo parlando dei piccoli contribuenti, quelli che avevano la contabilità semplificata. Ecco, tu gli devi dire adesso che devono farsi una sorta di prima nota e devono annotarsi tutti gli incassi e tutti i pagamenti. Quando abbiamo iniziato a dire a qualche cliente quello, ma guardate Cigliotti, ma te sei impazzito. Non io sono impazzito, forse sono impazziti loro che non si rendono conto di quello che stanno facendo. Questa è la cruda e vera realtà, caro Giannino. Allora, se non capiamo queste cose, noi se non le diciamo, la gente pensa che siamo sempre qui a lamentarsi. In realtà non è così. È una falsa e continua semplificazione che invece si sta rilevando una complicazione per il contribuente e per noi professionisti. Però lei mi conferma, voi non avete, in quanto professionisti del settore, tenuti ovviamente a che il cliente rispetti in pieno la legge, non avete alternativa dopo questo processo di approvazione? Ma assolutamente no. Ma cosa vuole? Che alternativa abbiamo noi? Quando questo provvedimento sulla contabilità semplificata era entrato come un provvedimento opzionale, cioè era lasciato per una volta al contribuente la libertà di scegliere se fare questo nuovo regime contabile o continuare come prima. È entrato come un provvedimento opzionale ed è uscito invece come provvedimento obbligatorio, e cioè il piccolo contribuente in contabilità semplificata deve determinare il reddito con le nuove regole, quindi c'è niente da scegliere e c'è niente da discutere, possiamo unicamente rispettare la norma, ma sicuramente diremo ai nostri clienti e tra di noi, quindi cercheremo di far avanzare questa protesta, che così non va assolutamente bene, non siamo nella strada della semplificazione, questo deve essere chiaro. Allora, intanto adesso abbiamo un minuto di informazione di servizio sul traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccomi tornati in diretta e innanzitutto io, sia pure impropriamente, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio 24 che, approfittando del fatto che sono qui a condurre nel pomeriggio, e voi tutti sapete che conduco anche insieme a Alessandro Mila alla mattina, attenti a noi due, state scrivendo da stamattina ma ancora adesso in tantissimi, numerosissimi, pregandoci di trasferire ad Alessandro Mila tutto il sentimento delle vostre condoglianze, del vostro affetto, i vostri abbracci, perché Alessandro Milan avverta che c'è una comunità molto vasta che non solo apprezza da anni quello che fa, ma che gli si stringe con dolore, con affetto vero per questa cosa terribile che è avvenuta stanotte. Per chi non lo sapesse, è scomparsa Francesca Del Rosso, sua moglie, mamma e due bambini piccoli che adesso restano. Alessandro, leggete, io posso solo chiedervi una cosa: se non lo avete ancora fatto, andate su Facebook di Alessandro Milan e leggete quello che Alessandro ha avuto, per me, la forza, lo dico sinceramente, di scrivere a sua moglie, a Francesca, per la sua scomparsa, e coglierete la profondità di una cosa che fa bene e fa male leggere. E io vi ringrazio tutti, perché vi posso solo garantire che non solo glielo diremo, ma troverà, quando tornerà Alessandro più avanti, tutti i vostri messaggi e tutto il senso del vostro affetto, che merita, lo dico io tre volte. E grazie ancora. Torniamo all'argomento della puntata. È con noi Antonio Gigliotti, il direttore di Fiscal Focus, e abbiamo visto gli effetti che l'approvazione in tempi rapidissimi, e quindi senza la possibilità di valutarne gli emendamenti, le correzioni, rispetto alle quali anche parti della maggioranza si erano dichiarate favorevoli per alcune norme fiscali introdotte, alcune con il decreto fiscale, altre in questa legge di bilancio. Ne abbiamo viste un paio, quello dello spesometro trimestrale, quindi partite IVA, e quello per i piccoli imprenditori invece sul cosiddetto nuovo regime per cassa, che però risulta obbligatorio invece che una facoltà, e quindi obbligherà, per così dire, tutti i piccoli a una doppia tenuta contabile, per così dire. E avete sentito che si tratta di un problema serio, non di una lamentela, per così dire. Quello che io chiedo ad Antonio Gigliotti a questo punto, visto che ci ha ricordato che il 14 dicembre i commercialisti comunque scenderanno in piazza per protestare non solo per i maggiori adempimenti a carico loro come professionisti, ma anche a nome dei loro clienti contribuenti, come la vede Gigliotti e i suoi colleghi, come la vedono? C'è qualche possibilità concreta secondo lei che su alcune delle cose che abbiamo citato ci sia una possibilità di intervento attraverso il mille proroghe? Ma guardi, noi siamo fortemente decisi e coesi dopo tanti anni un po' così di silenzio da parte di un'intera categoria, ma certamente quindi non riusciamo più a sopportare quindi simili atteggiamenti. Cioè, pensi che praticamente abbiamo fatto mesi e mesi di tavole rotonde con il vice ministro Casero, quando ha saputo, prima ovviamente del 4 di dicembre, che c'era questa manifestazione, cioè per anni non si è fatto assolutamente niente, come i bimbi che quando si lamentano gli dai una caramella, quindi qualche giorno prima della manifestazione del 4 di dicembre dice, quindi dichiarazioni ufficiali intervenute in una manifestazione a Pisa, che non c'era nessun tipo di problema e che si potevano risolvere tanti problemi. Ma io dico, no, è questa una politica seria? Cioè, tu hai partecipato a decine e decine di tavole rotonde con i professionisti, siamo arrivati a quello che avete partorito e prima del 4 di dicembre intervieni in un convegno telefonicamente dicendo che non c'era nessun tipo di problema, che avremmo risolto tutto. Allora se questa è la politica, se questo è il modo di fare politica, siamo fortemente nauseati di questa politica. Se c'è possibilità non lo so sinceramente, perché se il tutto si muove da esigenze di cassa e il regime di cassa per i semplificati, leggendo nella relazione, cioè cosa scandalosa direttore, guardi, leggendo la relazione di accompagnamento alla manovra si legge che da questo provvedimento prevedono di incassare 850 milioni di euro. Allora io dico, ma se tu me lo fai passare come un'agevolazione e poi invece da quel provvedimento vai ad indicare una somma che prevedi da incassare, allora capisci che è tutta una farsa, no? Perché se tu colleghi un incasso da quel tipo di regime che introduci, allora vuol dire che la scelta, perché effettivamente abbiamo visto poi nei fatti che non è una semplificazione, ma era unicamente in un contesto di cassa per il bilancio dello Stato, che non ha niente a che fare con le agevolazioni a favore dei contribuenti, c'è niente da dire. Comunque quello che noi possiamo fare, che io personalmente mi impegno a fare, è di qui a fine anno tornare di nuovo su questi argomenti. Ora ovviamente vediamo quale sarà la composizione del governo, se al MEF tutto resta come prima. Se tutto quello che stanno facendo, che praticamente rimane tutto come prima, cioè, se hanno partorito questo, non vedo cosa possiamo sperare. No, ma bisogna solo sperare che alla Camera e al Senato, visti i tempi, sia venuta meno la possibilità. Quello che posso fare io è mettermi a disposizione perché insieme a voi vediamo di trovare nato il governo nei giorni prossimi, chiamare qualcuno ai microfoni e ribadirgli quello che però, sono sincero, i professionisti del settore avevano già detto più volte pubblicamente, nel senso che non trovo poi giusto prendersela con i commercialisti dicendo no, vi siete parte passiva, non è così, questa volta proprio non è così, e è quello che proveremo a fare. So che il governo ci dirà probabilmente che è incolpevole perché quelle procedure non le ha adottate lui, ma è anche vero che siccome mi aspetto che nel mille proroghe ci sia la proroga per esempio per il contratto di concessione di servizio pubblico alla RAI, beh allora a maggior ragione forse nel mille proroghe qualcuna di queste disponibilità a cambiare la prescrittività di queste nuove norme che era stata oralmente espressa, vediamo se ci sarà davvero la facoltà di vederla introdotta nel decreto mille proroghe, pensando a milioni di contribuenti. Grazie intanto Antonio Gigliotti, grazie a tutti voi per l'ascolto di Radio 24, appuntamento ohimè solo con me e non con Alessandro Milano ancora domani mattina, attenti alle 2 alle 8:20.